641. Torta di patate. Trattandosi di patate, non ridete del nome ampolloso, perché, come vedrete alla prova, non è demeritato. Se i vostri commensali non distinguono al gusto l'origine plebea di questa torta, occultatela loro, perché la deprezzerebbero. Molta gente mangia più con la fantasia che col palato, e però guardatevi sempre dal nominare, almeno finché non siano già mangiati e digeriti, quei cibi che sono in generale tenuti a vile per la sola ragione che costano poco o racchiudono in sé un'idea che può destar ripugnanza, ma che poi, ben cucinati o in qualche maniera manipolati, riescono buoni e gustosi. A questo proposito vi racconterò che, trovandomi una volta ad un pranzo di gente familiare ed amica, il nostro ospite, per farsi bello all'arrosto, scherzando uscì in questo detto: «Non potrete lagnarvi che io non vi abbia ben trattati quest'oggi, perfino tre qualità di arrosto, vitella di latte, pollo e coniglio». Alla parola coniglio, diversi dei commensali rizzarono il naso, altri rimasero come interdetti, e uno di essi, intimo della famiglia, volgendo lo sguardo con orrore sul proprio piatto, rispose: «Guarda quel che ti è venuto in capo di darci a mangiare! Almeno non lo avessi detto, mi hai fatto andar via l'appetito!» Ad un'altra tavola, essendo caduto per caso il discorso sulla porchetta, un maiale di 50-60 chilogrammi, sparato, ripieno di aromi e cotto intero nel forno, una signora esclamò: «Se io avessi a mangiare di quella porcheria, non sarebbe possibile!» Il padrone di casa, piccato dell'offesa che si faceva a un cibo che nel suo paese era molto stimato, convitò la signora per un'altra volta e le imbandì un bel pezzo di magro di quella vivanda. Essa non solo la mangiò, ma, credendola fosse vitella di latte, trovava quell'arrosto di un gusto eccellente. Molti altri casi consimili potrei narrare, ma non voglio tacere di un signore che, giudicando molto delicata una torta, ne mangiò per due giorni, saputo poi che ella era composta di zucca gialla, non ne mangiò più non solo, ma la guardava bieco come se avesse ricevuto da lei una grave offesa. Eccovi la ricetta: patate grosse farinacee grammi 700, zucchero grammi 150, mandorle dolci con tre amare grammi 70, uova numero 5, burro grammi 30, una presa di sale, odore di scorza di limone. Lessate le patate, meglio cotte a vapore, sbucciatele e passatele dallo staccio quando sono ancora ben calde. Sbucciate e pestate finissime insieme con lo zucchero le mandorle, versatele nelle patate con gli altri ingredienti, lavorando il tutto con un mestolo per un'ora intera e aggiungendo le uova una alla volta e il burro sciolto. Versate il composto in una teglia unta di lardo, burro ed aspersa di pangrattato. Cuocetela in forno e servitela ghiacciata.